è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18:38, i numeri di telefono per chiamarci in diretta e dire la vostra, come al solito, fino alle 21. 800 24 00 24 è il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Il presidente Napolitano interviene sullo scontro politica e giudici. Nulla può abbattere un governo che ha la maggioranza. La ANM, non siamo in guerra, ma non vogliamo essere aggrediti. Era pronto a fuggire l'uomo arrestato per l'omicidio della donna, trovata con le mani mozzate. Sotto sequestro la villa del delitto. Il killer era appassionato di legal thriller. Troppi incidenti sulle strade per chi alla guida si distrae fumando. Pronto un emendamento della Lega alla riforma del codice della strada. Strada, multe salate per chi fuma al volante. Si chiama Agnieszka, non è proprio avvenente, ma con la sua voce ha conquistato i francesi. Lanciata in un programma di nuovi talenti, segue la scia di Susan Boyle, la tempata signora scozzese, ormai star internazionale. Bene, qualche titolo anche di studio aperto. Varese, l'assassino tradito dai graffi sul volto. Già la moglie era bruciata in circostanze misteriose. Lui, dopo aver mutilato la signora Carla, scherzava al bar con gli amici. Occhio che taglio le mani anche a voi. Bergamo, 95 anni, esce per buttare la spazzatura. Un extracomunitario le chiede soldi, lei non li ha. Allora aggredita e ferita e passa l'intera notte per terra, abbandonata, prima che arrivino i soccorsi. Il suo racconto. Basta inneggiare alla camorra, così Nino D'Angelo contro i video che esaltano i boss. Eccoci qui alle 18:39, 800 24 00 24. Dopo questa prima spolverata di telegiornali, ritorniamo un attimo sulla Mannoia, così per ricordarci delle frasi di ieri sulle donne che hanno perso, sull'immagine delle donne che avrebbero perso dignità negli ultimi tempi, la Mannoia. Vorrei cercare. Siamo in un momento in cui l'immagine femminile è un'immagine che non ci rappresenta. Oggi sentiamo delle battute infelici sulle donne, oggi passa una come normale che una giovane ragazza possa mostrare in fondo schiena ai potenti e diventare ricca e famosa e a volte anche europarlamentare. Avallare questo come qualcosa di normale è molto pericoloso. Io credo che dobbiamo noi donne riprenderci un po' della nostra dignità. Dobbiamo fare in modo di riconquistare la dignità che ci stanno togliendo. E non faccio commenti. Ma il fatto del giorno, almeno quello che io ho letto questa mattina come il fatto del giorno, affrontando i quotidiani, è la vicenda della Mussolini e di Fiore. Non ci credo nemmeno per un secondo. Però oggi su Il Giornale il titolo era questo, uno dei principali titoli: ricatto hard alla Mussolini, l'ultimo veleno della politica del gossip, voci di un video usato per incastrare l'onorevole PDL, sesso esplicito, secondo le indiscrezioni, tra la Mussolini e il leader dell'estrema destra, Fiore. Una Mussolini furibonda e però nello stesso tempo quasi rassegnata a questo fango che le viene addosso. Io non so se essere incazzata o mettermi a ridere. Perché vendono frammenti di cervello su eBay di mio nonno. 3 giorni fa mi chiama la polizia che sono stata denunciata per diffamazione da Gino Paoli perché io dissi che nella canzone Il Pettirosso trattava di pedofilia in modo equivoco ed era un tema grave che potesse essere trattato. Oggi mi danno della puttana e dell'assassina in un film. Perché non sono riuscita a bloccare il giudice. Oggi c'è questa storia che ho letto sul giornale. E che volete? Fate di me quello che volete, sono a disposizione. Accada quello che deve accadere. Non lo so. Io stamattina ho aperto la televisione e ho visto questa notizia. E quindi basta, non posso dire altro. Questa è la Mussolini che poi utilizza anche parole piuttosto pesanti, sentite. Si faccia quello che si vuole, visto su Dagospia, foto, le cose, via, andiamo così. Non mi frega niente, tanto io sono una donna, sono forte, non me ne fotte un cazzo di quello che fanno, facessero quello che vogliono. Avete sentito? 800 24 00 24, i poeti contro Berlusconi, a grande richiesta, perché ho ricevuto tante mail, non so se ci torniamo questa sera, però Gianni D'Elia è uno dei 30 poeti reclutati dall'unità contro il Premier. Ieri è stato protagonista qui alla Zanzara di uno show, secondo me, assolutamente fuori da ogni regola, e però straordinario. Risentiamo. La prima cosa che uno pensa è che la zanzara, più che una zanzara, è una cornacchia del potere. E certo. Che lei ha letto qualcosina, se sa quello che Pasolini scriveva. Ho letto molto poco. Nella mia vita ho letto molto poco. Capire quello che sta succedendo in questo paese. No, grazie anche a voi. Perché la voce è quella del padrone che si sente solo. Boh. Per lo più si sente una voce sola, una grande voce sola. Mettere al posto della cultura Villa Certosa. Cos'è? Questa è l'Italia. Mettiamo al posto della cultura tutto questo bel ambaradan di gente che traffica con la droga, che va in giro con le puttane, che fa quello che fa, e poi diciamo, ma in fondo questo è Rolling Stone. Sì. Perché la pietra che rotola, questa è una pietra sopra di noi. Questa non rotola, è lì da 20 anni e ci sa quanto ci vuole stare ancora. Allora. Noi ci ribelliamo e statelo a sentire, noi poeti siamo inermi e lo faremo con la parola. Questo era Gianni D'Elia, grande richiesta, è intervenuto ieri per una mezz'oretta alla Zanzara. La mafia e Berlusconi, cosa accadrà dal 4 dicembre in poi, chi lo sa? E però voglio farvi ascoltare un duetto, chiamiamolo così, tra Daniele Capezzone, e un esponente del Partito Democratico, dell'antimafia, sul ruolo di Berlusconi nelle stragi del 92-93, Giuseppe Lumia, sentite. Le stragi. Parliamo delle stragi. È stato Berlusconi? 92-93. È stato Berlusconi? La magistratura deve indagare su tutti. È stato Berlusconi? Deve indagare su tutti. Berlusconi? Berlusconi? È stato Berlusconi? Non ha un'immunità totale. È stato Berlusconi? Su tutti deve indagare. È stato Berlusconi? Deve indagare su Sono tutti. Sono stati Berlusconi? Lascia che la magistratura lavori. Sono e che non anticipate, creando un'ipotesi di complotto. Guarda, l'impossibilità della magistratura. Sono stati Berlusconi? Guarda, non devi dire questo. Questa è una semplice provocazione. Disse sono Berlusconi, Schifani e Demutri. Che depista la magistratura. Deve indagare liberamente. Io fra un po' però vi interrompo, perché sennò qui, scusatemi, non finisco. Siamo qui 18:48 800 24 00 24 per chiamarci. Intanto c'è ancora un po' di confusione sul governo intorno ai provvedimenti da prendere per impedire che succeda qualcosa a Silvio Berlusconi, una condanna, gli avvisi di garanzia sulla mafia, anche se difficilmente saranno evitabili secondo i rumors. E allora sentiamo una strepitosa imitazione di Neri Marcorè dal programma di Serena Dandini su Ghedini, naturalmente. Sì, ho capito, sei in centro a fare compere, il vigile urbano ti va a fare solo multe, ma che problema c'è? Depenalizziamo la sosta in doppia fila e sosteniamo il principio dello shopping. Ma certo, per acquisto di legittima cravatta ci mancherebbe. Avvocato! Però adesso non chiamarmi più, che c'ho una rogna grossa. No, non la legge di gravità, quella la modifichiamo la settimana prossima, che è uno scherzo, figurati. Ora c'è una cosa più complicata. Anche quella. Ma figurati, sono qui per questo, il mio nome è Ghedini, risolvo problemi, ciao caro. Ciao, avvocato, ciao. Ma davvero valeva la pena di fare tutto sto sudoku per evitare un processo, al massimo due, come dice Alfano? Questa è una legge che riguarda tutti i cittadini italiani, certo, è certo. Chiaro? Sì, tutti sì, quei sì. Milioni di italiani, sì, miliardari, sì. Che magari sono utilizzatori finali di conti offshore, alti magari 1,70 con i tacchi, è chiaro? Quanti ce ne sono in Italia così? Uno. E allora lo vogliamo discriminare per questo, no. Solo perché è uno? Allora, voglio capire, voglio sapere chi è l'autore di quell'emendamento leghista nella finanziaria in cui si sostiene la necessità di limitare la cassa integrazione per quello che riguarda i lavoratori extracomunitari. Cioè, se uno è extracomunitario ha diritto alla cassa integrazione, però ci deve essere un numero ristretto di extracomunitari che ne hanno diritto. La norma è chiaramente anticostituzionale, non è inapplicabile totalmente, però c'è qualcuno che l'ha proposta alla Camera. 800 24 00 24, Alfonso da Salerno, buonasera. Buonasera, posso parlare? Sì? Alfonso, prego, dica. Sì, allora, io volevo semplicemente chiederle qual è la ragione per la quale lei decide di dare tanto spazio a un personaggio abbastanza singolare come il poeta anti-berlusconiano che ha mandato in onda, cioè l'ha intervistato ieri sera, adesso mi pare, se ho capito bene, ha rimandato degli stralci di questo intervento. Perché ritengo questo, cioè io parlo tra l'altro da persona di sinistra, insomma, non sì, contrario, diciamo, al governo attuale, e non capisco perché dare tanto spazio a questi personaggi, che sono personaggi ridicoli, minoritari, che non contano niente, soprattutto qual è il contenuto informativo del dare spazio a questi personaggi. Così come giorni fa ha dato spazio a quelli che temono che si formi il Ku Klux Klan in Italia, e quindi erano pronti ad armarsi contro questo Ku Klux Klan, ma guarda che i cretini ci sono, uno riesce sempre a trovarli, li trova a sinistra, li potrebbe trovare pure a destra. La domanda è questa: qual è il senso di dare tanto spazio a questi guardi personaggi? Alfonso, tanto spazio se l'è conquistato il nostro amico poeta Gianni D'Elia con il suo modo di fare, per le frasi che ha detto. Noi volevamo semplicemente che ci declamasse la sua poesia su Berlusconi o contro Berlusconi, se lei vuole, ma qui parliamo di un'altra cosa che no, ma perché? Che significa? Alfonso, cosa significa perché? Voglio dire, perché allora io potrei dirgli, c'è un movimento per il Nobel alla per la pace. Scusi, Alfonso, abbiamo parlato a lungo del movimento per il Nobel per la pace. Sì, allora Berlusconi. Ho perso quella trasmissione. Ecco, però appunto, l'ha persa. Qualche cretino, qualche persona, cioè si trova sempre. Allora, sì, per esempio, delle volte la cosa che a me non piace. Qualche volta, Alfonso, le storie, come dire, piccole sono significative di qualcosa. Ma questa no, quella di questo ci sono sempre. Secondo me sì, è stato uno dei 30 poeti reclutati dall'Unità per sparare addosso a Berlusconi. Ecco, sparare addosso naturalmente in senso metaforico, qualcosa nel suo piccolo significa. Ma diciamo, però mi piacerebbe venisse dato spazio anche ad altre cose. Comunque le faccio Alfonso, cosa vuole? Questa è la mia scelta, cosa. Se non le piacciono le mie scelte, le dico pure, può fare la sua scelta. Sono d'accordo con lei, cioè io sono sempre contro tutti quelli che urlano contro il fatto che non c'è il regime, non c'è più la libertà, sono tutte idiozie. Io sono assolutamente d'accordo con lei. Però, e lei fa bene a sottolineare questi tic, queste frasi fatte, slogan della sinistra. Io questo voglio sottolineare, esattamente, non solo della sinistra, anche della destra, naturalmente. Però lei lo fa in una misura talmente accentuata, però alla fine non parla mai del fatto che comunque un qualche problema legato, secondo me, essenzialmente al conflitto di interessi esiste. Sì, da 15 anni, infatti. No, lei di solito che fa? Dice, vabbè, lo sappiamo che esiste il conflitto di interessi. Sì, questo è quello che penso io, non le piace quello che penso io? Benissimo, lo dica, lo può tranquillamente dire. Lo può tranquillamente dire, non c'è problema, lo sta dicendo. No, ma non è che io le ho detto che apprezzo il fatto sì, di e allora qual è il punto? Non ho capito. Certe frasi fatte e slogan della sinistra, e glielo dico da persona di sinistra, d'accordo? Sì, d'accordo. Perché c'è bisogno di abbandonare tutta questa roba, questo armamentario inutile e stupido. Però non vorrei che si passasse dall'altro lato, nel senso che poi, cioè, ignorare completamente ma le chi cose ignora, che poi Alfonso, originano queste cose. Le ho fatto l'esempio del conflitto di interessi. Sì, d'accordo, no? Alfonso, ma nessuno nega che esistano problemi anche dall'altra parte, figuriamoci. No, vediamo. Ma non parlare della destra, nel senso di dire. Sì, di Berlusconi, della destra, il conflitto di interessi, allora, lo sappiamo. La democrazia, non c'è alcun dubbio, non c'è nessuna minaccia alla libertà, tutti dicono, scrivono, fanno quello che vogliono. Però, diciamo, un problema che esiste è quello del, ripeto, esiste il conflitto di interessi. Lei bypassa sistematicamente. No, non lo bypasso, però mi piacerebbe pure che si puntasse l'attenzione anche su questo. Va bene, Alfonso, non so in che modo si possa puntare l'attenzione su questo. Voglio però dire che tutte queste manifestazioni stupide no, a volte nascono da un problema che comunque esiste. Allora, d'accordo, esiste, lo sappiamo che esiste. E allora la sensazione che se ne riceve è che vabbè, il problema esiste, sì vabbè, e poi tantissimo spazio a tutti questi cretini che parlano, siamo in un regime, Alfonso, eccetera, eccetera. Ci sono cretini da una parte, ci sono da una parte e dall'altra. La ringrazio, Francesco dalla provincia di Brescia, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io devo darle un dispiacere, nel senso che volevo dirle che lei giornalisticamente non è stronzo, non è un giornalista stronzo, nel senso che si impegna probabilmente a fare lo stronzo, ma non lo è. Se la prende, fa l'acido, fa il corrosivo con gli ascoltatori, con l'opposizione, con i poeti che scrivono poesie contro Berlusconi, fa l'ironico, il sarcastico, ma poi lei di fatto giornalisticamente con chi se la prende? Se la prende con qualcuno? No, ultimamente la sua battaglia che ha fatto qual è? Quella contro Stanca, che è una battaglia totalmente demagogica. Battaglia contro Stanca, io non ho fatto a due nomine, allora Stanca, chiamiamo Stanca, si dimetta. Ma cosa si dimetta? Ma questo che cattivone che è lei che chiede a Stanca di dimettersi. Francesco, il problema non è Stanca. Guardi, il problema... adesso c'è il giornale radio, sia calmo, c'è il giornale radio, ci risentiamo se vuole, perché già comincia a scaldarsi troppo. Titoli del TG3. Napolitano, basta tensioni tra istituzioni, nulla può abbattere un governo che ha la maggioranza, i magistrati si attengano al loro ruolo. L'ANM, giudici sotto attacco, difficile l'equilibrio tra poteri, Schifani su riforme, tavolo di confronto maggioranza-opposizione. La bolla di Dubai gela i mercati, ma in Europa ritorna l'equilibrio, Wall Street in recupero, interrogativi sulla crisi dell'Emirato. Il Papa, anche Gesù era migrante, rispettare i diritti della persona, la Lega un tetto alla cassa integrazione per gli immigrati. L'influenza A, il virus muta, 2 morti in Francia, era già successo in Norvegia, i 2 pazienti erano ricoverati in città diverse. La morte di Cucchi, lettera di un detenuto al parlamentare Pedica, appena arrestato Stefano mi disse mi hanno picchiato i carabinieri. Esplosione in una fabbrica vicino a Latina, 4 operai feriti, stavano travasando sostanze gassose, sfiorata la tragedia. La Polonia mette al bando tutti i simboli del comunismo e l'uso delle bandiere rosse nelle manifestazioni, pene fino a 2 anni di reclusione. Avete sentito l'ultima notizia del TG3? Ha fatto bene il TG3 a metterla dentro. In Polonia, tra l'altro i polacchi, avete sentito, messa al bando dei simboli comunisti fino a 2 anni di reclusione. La Polonia era stato uno di quei paesi che aveva detto no a D'Alema per il suo passato da comunista. Intanto Fugatti è l'uomo della Lega che ha proposto l'emendamento sulla cassa integrazione da negare agli extracomunitari, ne parleremo tra poco dopo Sky TG24. L'appello di Napolitano a politici e giudici, basta tensioni. E l'ANM risponde, non siamo in guerra ma non devono colpirci. Mills, udienza rinviata al 4 dicembre, Berlusconi non sarà in aula. La Lega propone un tetto alla cassa integrazione per gli immigrati. E intanto il Papa ricorda che anche Gesù fu un migrante ed un rifugiato. La crisi di Dubai spaventa le borse e Banca Italia minimizza i rischi per l'Italia. Nucleare, la IEA sanziona l'Iran, misura inutile è la replica di Teheran. Multe salate per chi fuma in auto, la proposta del Carroccio verso l'approvazione. Videoricatto alla Mussolini, è soltanto un'aggressione, dice lei. Il ritorno di Moana su Sky in arrivo, la miniserie con Violante Placido. Bene, 800 24 00 24, cosa può essere saltato in mente al leghista Fugatti nel proporre una cosa del genere mettendosi contro l'intero governo? Forse far parlare di sé, o forse ci crede per davvero che in periodi di magra bisogna limitare la cassa integrazione agli italiani, come dice. Lo ha raggiunto pochi istanti fa Paolo Panceri, sentiamo. Le risorse sono quelle che sono, perché non sono molte, lo sappiamo, e noi crediamo che si debba pensare prima al sostegno, al sostentamento dei cittadini italiani e dopo, se ci sono le risorse, al sostentamento anche eventualmente, se ci sono le risorse, degli extracomunitari. Quindi diciamo, se una fabbrica chiude, se c'è una situazione di crisi, se c'è la cassa integrazione, noi non diciamo di non dare la cassa integrazione all'extracomunitario, noi diciamo gliela diamo, però gliela limitiamo a 6 mesi nel 2010. Ma non gliel'ha detto nessuno che non si può fare? Bah. Altra proposta leghista, non so come giudicarla anche questa, è più fondata naturalmente perché si basa su dei dati concreti su cui si può discutere, però io la trovo anche difficilmente applicabile nella pratica, e poi ci toglie un pezzettino di libertà, almeno ai fumatori, l'avete sentito in tutti i titoli questa sera. Cioè il divieto di fumare in macchina, multe pesanti, 5 punti in meno sulla patente, 250 euro. Accendersi una sigaretta mentre si guida può essere fatale, tanto quanto rispondere al cellulare, anche di più, perché ci vuole più tempo, almeno 4 secondi. Distrarsi per raccogliere la cenere che cade poi può far perdere il controllo del mezzo. Il divieto di fumo per il conducente è già una realtà in paesi come la Gran Bretagna, dove viene sanzionato con multe di 3.000 sterline e perdite dei punti della patente. Presto potrebbe esserlo anche in Italia. L'idea del senatore leghista Pier Giorgio Stiffoni è già una proposta di legge all'esame della Commissione Lavori Pubblici e verrà inserita come emendamento alla riforma del codice della strada. La sigaretta riduce il livello di attenzione, ricorda il senatore, e al volante può uccidere. Nel 2008 a provocare il 15%. Vabbè, questa in sostanza la norma che si vuole approvare. Concordo con quello che Pierluigi Battista scrive questa mattina sul Corriere della Sera: i parlamentari che propongono il divieto di fumo nelle automobili sono alla disperata ricerca di visibilità, oppure sono sadici, oppure sono dei feticisti della regola che credono possibile abolire i rischi della vita con un decreto, con un comma, con l'articolo di una legge. È proprio così, l'automobile come strumento di mobilità e di libertà, chi se ne ricorderà più? Tutti quelli imbevuti delle mitologie on the road dovranno rassegnarsi. Sulla strada l'occhio del Grande Fratello scruterà negli abitacoli per controllare chi sta aspirando una sigaretta in autostrada, chi sta masticando compulsivamente un chewing gum, chi sta manovrando l'impianto stereo per inserire un CD preferito. E perché appunto non proibire la musica? Perché non proibire la presenza dei bambini che possono distrarre? Oppure, scrive Battista, una carezza di qualcuno. Tutto può distrarre in macchina, proibiamo tutto. 19:25, Beppe Grillo questa mattina è tornato a parlare in maniera piuttosto confusa, devo dire, in un'intervista a Radio 3 a Gian Antonio Stella. Non c'è solo Berlusconi, anche se poi le cose sono state smentite, a parlare di guerra civile. Se l'ha fatto, secondo me ha sbagliato in maniera clamorosa. Se lo ha fatto, perché non è confermato naturalmente. Lo fa curiosamente anche Beppe Grillo, sentite in che modo. Questo paese ha 1 miliardo di euro di debiti al giorno, che sta aumentando di 1 miliardo di euro al giorno il debito pubblico. Stiamo andando verso la guerra civile, verso i disordini, e continuiamo a parlare di cazzate, e me lo faccia dire cazzate, lo dico 3 volte cazzate. È stata una conversazione, io l'ho sentita in registrazione dopo, piena di parole anche pesanti, sul turpiloquio tra l'altro. Grillo ha una sua idea, l'importante non è la parola, sentite. Il mio non è turpiloquio, guardi, la volgarità risiede nell'anima delle persone, non nelle parole, ed è più schifoso dire utilizzatore finale che puttaniere, secondo me. Quindi riappropriamoci delle parole. Ci sono le minorenni, ci sono le ragazze sotto i 18 anni, ci sono i vecchi porci e poi ci sono invece i miliardari trombatori. Da un certo punto di vista non ha tutti i torti, bisogna dire le cose come stanno, nel senso bisogna utilizzare le parole appropriate. In realtà tutta questa trasmissione in cui era invitato Beppe Grillo era incentrata sulla vicenda dell'acqua, su cui secondo me naturalmente Grillo dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, prevede pericoli di questo tipo. Qui stiamo parlando di criminali, l'acqua andrà in mano a banche, sono sempre gli stessi, le ripeto, da banca a banca, a Fideuram, a Caltagirone, a Tronchetti, a Ligresti, sono sempre gli stessi che vogliono gestire la vita. Io non gliela do la vita dei miei figli a questi mascalzoni, chiaro? Quindi qui rischiano, Grillo, se toccano le fonti, se toccano l'acqua, qui rischiano grosso. Io ve lo dico in diretta, perché saremo in tutti i posti. Rischiano grosso? Cosa rischiano concretamente? Una guerra civile, come dice la gente che dà l'assalto non so a chi? Vabbè, insomma il solito Grillo. Tra l'altro, perché è difficile interloquire, parlare con uno come Beppe Grillo? Anche Gian Antonio Stella, che certamente con Grillo ha un rapporto di un certo tipo, forse si stimano, non lo so, ha trovato qualche difficoltà nell'arginarlo, nel porre delle domande, delle questioni, anche nel calibrare i tempi e i modi. Sentite a un certo punto che si arrabbia. Grillo, se parla solo lei, mi lascio il microfono, andiamo, io me ne vado a casa, tanto è lo stesso. Stella, no? Mi faccia parlare, io non parlo da io anni. Io l'ho fatta parlare fino ad adesso, Stella, ma se vogliamo fare alcune domande agli ascoltatori, grazie. Poi questa qua è alla Di Pietro, naturalmente. Io non parlo da anni, dice Grillo, il che naturalmente non è vero e soprattutto segnala che cosa? Che anche lui dice che la comunicazione in televisione, nei canali ufficiali non conta e che invece c'è internet, ci sono i nuovi mezzi e però gli pesa questa cosa, che non riesce a parlare evidentemente al pubblico più ampio della televisione e dei media tradizionali. Chi ha una testa di prosa assoluta non arriverà mai a un minimo a intendere la poesia della resistenza, la poesia della memoria. La causa del casino che c'è in Italia oggi, sa qual è? Qual è? È l'orgoglio e la dismisura, perché quando uno c'ha il potere economico e prende anche quello politico e non gli basta, vuole tutto, ha avuto il potere sociale, quello economico, quello pubblicitario, quello politico, ma vogliamo svegliarci in Italia? Delia, dicendomi e chiedendomi, ma perché ci hanno chiamato per parlare? Ma Delia, della poesia, mi scusi. Che siete uomini di prosa così veramente allucinanti. Ecco, appunto. Uomini di prosa che non capiscono e non capiranno mai niente, niente della poesia. Ma lo vede, della lo vede. Gente, della poesia della vita. Italia era quella di Dante, adesso è quella di Berlusconi. Mi dica se c'è un parallelo possibile. Come dire, quando si tranquillizza un attimo, perché ripeto, ma si io può... sono tranquillo. No, adesso appunto, quando lei parla tranquillamente ci si può confrontare. Sta parlando con me. No, io lei adesso non ma ci cosa non, fa lo non ci non ci nazista. Non... Gianni D'Elia, uno dei 30 poeti contro Berlusconi, ieri sera alla Zanzara, 800 24 00 24. Eravamo con Francesco dalla provincia di Brescia, eccoci qui, caro Francesco. Buonasera. Ancora buonasera, allora. Sì, le stavo dicendo che... Sì, con calma, lei, con calma. Con perché non... calma, con molta calma. Con molta calma. Sì. Lei fa l'acido, il corrosivo con gli ascoltatori, con i poeti. Può succedere, diciamo che può succedere. Può succedere, può farlo, certo. Però voglio dire, poi quando giornalisticamente c'è l'occasione di dire qualcosa di pregnante, di essere... incisivo, corrosivo, e poi invece non lo vedo questo. Beh, dipende, quindi, insomma, succede anche, succede di affrontare alcune cose con lievità, altre cose invece in maniera, esempio, più decisa. Ognuno ha la sua sensibilità, Francesco, non lei è una persona tollerante, lo dovrebbe capire. Certo, ma in particolare, per esempio... Mi dica cosa l'ha irritata, no? Così ne parliamo. No, non mi ha irritato. Dicevo, cosa l'ha fatta riflettere, dico? Cioè, al di là di questi atteggiamenti corrosivi che ha... ma questo è un po' il timbro della trasmissione, però. Certo, cioè... sì, però dico, ecco, voglio dire, poi sono andato un po' a cercare qual è una sua battaglia che abbia fatto ultimamente. Ultimamente l'unica battaglia che mi viene in mente è quella contro Stanca, dove... Beh, guardi, però, Francesco, mi scusi. In modo... Lei da questo punto di vista, a parte che non è necessario fare battaglie, primo. No, per carità, però voglio dire, lei non ho fatto nemmeno una battaglia su Stanca, non ho fatto nemmeno una battaglia su Stanca, ho fatto notare che secondo me si dovrebbe dimettere da parlamentare se vuole fare l'amministratore delegato dell'Expo 2015, punto, cioè non è che faccio Certo, però voglio dire, mentre ha dei toni molto efficaci contro i poeti, contro Mannoia, poi su queste cose qui la vedo un po' debole, nel senso che questa cosa su Stanca, per esempio, è molto demagogica, no? Molto demagogico dire, oh Stanca che cattivone, prende due stipendi. No, perché è demagogico? No, ma io tra l'altro... Francesco, se lei si ricorda bene quello che ho detto ieri sera su Stanca, tra l'altro non ho detto che i due stipendi sono importanti, perché comunque lo stipendio da parlamentare qualcuno lo prende, dunque non è tanto, sì, non è tanto gli stipendi. Giornalisticamente uno deve essere corretto, se a un ma che vuol dire? Certo che deve essere corretto, però se mi dice sì, su che cosa... Ma deve essere corretto e andare un po' a fondo, un po' alla sostanza delle cose. Allora, se le dà tanto fastidio che Stanca non si dimette... Ma non è che mi dà tanto... Deve essere corretto e rilevare una cosa, che il problema non è che Stanca si deve dimettere, perché non c'è nessuna legge che glielo obbliga. Certo, l'abbiamo ricordato anche quello. Sa qual è? Sì. Sa qual è? E se mi lascia parlare glielo spiego. Prego, me lo dica. Sa qual è? Che lo scandalo... che è che in Italia gli elettori non hanno la possibilità di mandare a casa Stanca, perché non hanno c'è una legge elettorale votata da una certa parte politica, voluta sì. da una certa parte politica, comunque c'è una che non permette di scegliere. Che non permette di scegliere, quindi il problema è che se Stanca vuole rimanere lì, ne ha tutto il diritto, ma il problema, lo scandalo non è quello, lo scandalo è che Stanca ha una nomina sì. che è quella di parlamentare. Questo guardi, è Francesco, allora, non sulla è legge... stato eletto, ma è stato nominato ho dal capito, partito. Ho capito benissimo, quindi, Francesco. Lei vuole essere però lei sbaglia, tipo... lei sbaglia su questo, no, perché non tutti la devono pensare come lei, naturalmente. Si ha la possibilità di pensarla anche in maniera diversa, sì. per fortuna. Io sulla legge elettorale probabilmente non la penso come lei. Cioè, in parte la penso come lei, sì, in parte, in parte fastidio, no, Francesco, abbia pazienza. Io penso che una scelta ci sia comunque. Ma chi lo fa il cattivone? Ma chi l'ha fatto? Ma non ho fatto il cattivone per niente. Le dà tanto fastidio che Stanca. Ma non mi dà nemmeno fastidio, se lo inventa lei che mi dà fastidio. Ho fatto una, ho detto semplicemente che dovrebbe scegliere tra parlamentare e amministratore delegato. Quello, però quello che le dico è, se un giornalista vuole rilevare questo fatto, deve rilevare che il problema non è che lui non si dimette, perché lui ha tutto il diritto di rimanere lì. Il problema è, uno, la legge elettorale. Ho capito, lei la vede così. Secondo me, in questo caso, il problema non è la legge elettorale, Francesco. Secondo me, è due che cosa? Che se c'è un modo per farlo dimettere, è quello che il partito gli deve dire: caro Stanca, ti devi dimettere. Assolutamente. Perché non sei in linea con il comportamento, con l'etica che assolutamente. Su questo lei ha ragione. E allora si sforzi un po' di più. Ma che significa si sforzi un po' di più, Francesco? Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ma non, io sono tranquillissimo. Ma io, se è lei che non si deve agitare, io sono tranquillissimo. Io la penso così, la penso una volta. Io dico e infatti, lei le ho detto che ha ragione. Io arrivo laddove conta veramente, ma... non far risentire i poeti, vabbè. Eccetera. Sì, è un questa è una scelta mia. Se non le piace, cambi radio. Se è una scelta mia, se non le piace, cambi radio. Io ascolto volentieri e la ringrazio. Dire quello che penso, no? Certo. Infatti, è qui da 10 minuti a dire quello che pensa senza problemi. Però non mi dica che non mi dica metto questo, metto quest'altro, non metto il poeta, non metto poeta, perché queste sono scelte mie. Se piacciono, piacciono, no, se non piacciono, non piacciono. A me il poeta è interessato molto. E appunto, allora qual è il problema? Allora non mi dica perché ha scelto il poeta, perché ha fatto. No, non ho detto perché ha scelto il poeta. Ho detto perché fa il corrosivo col poeta e poi non fa il corrosivo con un partito che non calcia, non caccia, non impone, non spinge. Stanca è un altro spunto, è un altro spunto quello che dovrebbe essere il PDL a suggerire a Stanca si dovrebbe dimettere da parlamentare. È vero, è uno spunto importante, però è uno spunto importante. Me l'ha suggerito lei, la ringrazio. Me l'ha suggerito lei, no, ma me l'ha suggerito lei, la ringrazio. Mi impegni un po' di più e Siamo vabbè, più mi impegnerò. Dove conta? Mi impegnerà, secondo lei conta, secondo me conta come altre cose. Vede che la pensiamo in maniera diversa, però la ringrazio, certo, di questo. La pensiamo diversa, io sto dicendo quello che penso, non e allora, io parlo e non mi dica si impegni o non si impegni. Ogni due secondi che dico quello che penso, è chiaro che dico quello che penso, cosa dico? Francesco, vabbè, d'accordo, la ringrazio, buona serata. Grazie, buonasera. Allora, Marco dalla provincia di Frosinone. Buonasera, la mia allora, intanto Paolo Bonaiuti, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dice: escludiamo nel modo più deciso che sia in arrivo un qualsiasi atto correlato alle indagini di Firenze e Palermo. Però... è tutto quello che dice Bonaiuti, vedremo naturalmente quello che succede nelle prossime ore. Prego, Marco. Ok, buonasera. Mi ha una telefonata un po' più leggera rispetto a quella precedente. Mi riferivo, fermo restando, sono alla guida e sto fumando. Mi riferivo ovviamente alla proposta di vietare il fumo alla guida. Sì, che è di un leghista che si chiama Pier Giorgio Stiffoni. Sì, adesso vorrei capire da questo signore... perché la sigaretta no e magari il panino, la lattina di Coca-Cola sì. Beh, ci sono dei dati su questo, Marco, pare, secondo me non so quanto attendibili questi dati, però ci sono dei dati che supportano questa tesi. Moltissimi ascoltatori mi stanno scrivendo e dicono che effettivamente c'è un tasso di distrazione notevole causato dalla sigaretta. Sì, ma anche inserire un CD in un autoradio, porta distrazione, cioè questo non è adesso puntuale sul discorso, però quello che volevo dire è sostanzialmente, mi sembra che ultimamente, anche dopo per esempio la proposta dell'abolizione della pausa mensa, che ci sia un po' un nuovo gioco, il trova la legge, e io credo che ci siano cose più importanti adesso dove fare nuove leggi o dove migliorare quelle esistenti. Mi sembra un attimo che ci sia un po' la ricerca, no, domani uscirà quella che non si può mettere la cravatta a quadri sulla camicia a righe. Beh, questa devo dire, Marco, rispetto alle proposte balzane che abbiamo sentito in settimana è un po' diversa, perché è un problema che molti hanno rilevato anche prima dell'uscita del senatore Stiffoni, che però sentiamo forse a Sky, vediamo. al senatore e al volante questo può uccidere. Quanto ci vuole per accenderla? Qualche secondo? E quanto ci vuole per raccogliere la cenere che cade? Poco. Pochi secondi che possono però risultare fatali. L'idea che arriva dalla Lega è già una proposta di legge all'esame della Commissione Lavori Pubblici e verrà inserita come emendamento alla riforma del codice della strada. Così, dopo ospedali, scuole, bus, cinema, locali, ristoranti, anche nella propria auto occorre fare attenzione. Se poi ci sono bambini, la multa raddoppia. All'estero già ci hanno pensato. In Gran Bretagna, per esempio, chi fuma mentre guida è punito con una multa da 3.000 sterline e da 3 a 5 punti in meno sulla patente. Secondo gli ultimi dati ACI Istat, la guida distratta ha provocato nel 2008 più di 40.000 incidenti. Allora, questa era Sky che ci racconta che negli altri paesi in qualche caso hanno messo questa regola. Marco, io sono d'accordo con lei, mi sembra una cosa alla fine anche inapplicabile. Come si fa a dire, c'avevi la sigaretta? No, non ce l'ho, l'ho buttata dal finestrino. Ecco, tutto qua, più che inapplicabile. Poi se si vuole fare, si fa. In Inghilterra è stato fatto. Sì. Però, ripeto, mi sembra che si stia un attimo ricercando un po' il cavillo un po' in tutte le cose, tutto qua, nient'altro da dire, insomma, tutto qui. Va bene. Buonasera, grazie. Grazie, 800 24 0024, come al solito, buonasera Giampaolo Panza, eccoci qui. Caro Giampaolo, ci siamo? Mi senti? Non mi sente, va bene, adesso recuperiamo la linea con Giampaolo Panza. Elena da Roma. Elena, non mi sente nemmeno lei, andiamo bene. Marco da Modena. Sera, Cruciani. Prego. Allora, io mi collego con la storia famosa del divieto di sfumo con la libertà personale. Io vado in macchina, mi metto la cinghia di sicurezza, vado in moto, mi metto il casco in testa. Mi sembra queste qui delle limitazioni sul proprio modo di pensare, perché, e non riesco neanche a capire bene l'utilità di questo obbligo. No, sul casco, mi scusi Marco, abbia pazienza, sul casco lei si sbaglia, il casco è un'altra cosa, il fumo no, in macchina è una cosa, il casco è un'altra. No Marco, non no, ci no, siamo. Assolutamente, io... Guardi, il casco sulle moto ha evitato un sacco di morti da quando è in vigore, su questo non c'è il minimo dubbio. Allora, in linea teorica ha ragione lei, ma ogni tanto qualche divieto ci vuole, o comunque qualche imposizione, in questo caso non è un divieto, qualche imposizione ci vuole, altrimenti è la barbarie. Le chiedo, io metto il casco, se non lo metto e mi spacco la zucca, io non faccio danno ad altre persone, no, ma non mentre è così. Invece se con la sigaretta mi cade la sigaretta in terra, cerco di raccoglierla, vado nell'altra corsia, posso... ammazzare qualcun altro. Cioè, secondo lei ha più senso il divieto di fumo in macchina piuttosto che il casco sulla moto? Sì, no, da un punto di vista. No, dal punto di vista in genere, perché lei dice col casco in moto non provoco danni agli altri. Cioè, se loro si preoccupano della mia sicurezza, io vorrei sapere perché non si preoccupano allora di togliere l'alcol, di togliere le sigarette. Ma questo è un altro discorso più generale che possiamo fare, però guardi, sul casco lei si sbaglia. La ringrazio Marco. Si figuri, buonasera. 800 24 00 24, linea ripresa con Giampaolo Panza, buonasera, ciao Giampaolo. Adesso vi sento, grazie. Come stai? Bene, vi ho parlato della sigaretta. Soprattutto quando sei in campagna stai bene, soprattutto quando sei in campagna. No, se vuoi parliamo anche della sigaretta, perché tu sei un fumatore, adesso in macchina non puoi fumare, pensa te, fra poco non potrei fumare perché no, c'è... No, ma mi sembra sacrosanto il divieto, io sono un fumatore, a parte che non fumo mai in macchina perché viaggio sempre con qualcuno e non voglio fumicarlo. Vabbè, quella è una cosa diversa. Più del necessario. Ma è vero che ci si distrae? Sì, si distrae molto, io ho fatto migliaia di chilometri in macchina da solo, quando facevo l'inviato con la sigaretta, ho sempre, spesso ho rischiato l'incidente, mi cadeva la sigaretta, mi distraevo mentre la accendevo, mi distraevo mentre la spegnevo, quindi tra le tante cose inutili che in Italia vengono vietate o autorizzate, vietare la sigaretta in macchina, lo dice un fumatore inveterato a 74 anni, ho cominciato a fumare che ne avevo 18, penso che sia una cosa giusta. Senti Giampaolo, siamo tutti in attesa di una sorta di Big Bang nella politica italiana. Ci sarà o non ci sarà secondo te? So che è una domanda da $1 milione, ma tu come la vedi? Insomma, ma lo chiedo a te perché stavo guardando il telegiornale di Sky, è scomparsa un'ultima notizia in cui Bonaiuti diceva non ci sarà nessun avviso di garanzia, intendeva dire per le vicende mafiose, sì, per sì. il Presidente del Consiglio, non lo so perché ormai i processi sono un terno al lotto. Non voglio dire troppo perché io faccio sempre l'imputato, sono ancora imputato adesso, non vorrei poi che il magistrato che si sta occupando del sottoscritto avesse un'opinione diversa dalla mia e quindi mi stangasse perché io ho un'opinione diversa dalla sua. Quindi non lo so, secondo me può accadere di tutto, può non accadere niente. Io penso sempre che siamo sull'orlo di una crisi istituzionale o anche soltanto di una crisi di governo, ma per un complesso di motivi, tra i quali questo certo può essere la miccia che fa saltare il bidone di esplosivo, però il bidone di esplosivo c'è già, sono le divisioni dentro la maggioranza, le liti continue e questo senso di sfacelo che trasmette una maggioranza che pure dal punto di vista numerico è molto solida. Anche la stessa immagine del Presidente del Consiglio è molto logorata, mi dispiace, non appartengo ai giornalisti che militano in modo fervido nell'antiberlusconismo, non ho mai votato il centrodestra, però quando ho visto i risultati delle elezioni dell'aprile del 2008 mi sono sentito comunque tranquillizzato perché esisteva comunque un governo su una base solida che avrebbe potuto affrontare, se ne era capace, una serie di problemi. Adesso non ce l'abbiamo più. Soprattutto si ha la sensazione che questa volta, rispetto ad altre situazioni di difficoltà in cui Berlusconi è riuscito a cavarsela, diciamo, sia più difficile del solito per una serie di motivi concomitanti, no? Ma sì, guarda, io negli scorsi mesi nel mio bestiario sul Riformista ho scritto un paio di volte, ho consigliato a Berlusconi di dimettersi, di lasciare tutto e di andarsene per la sua stessa tranquillità. La stessa cosa ho detto qualche giorno fa sul Libero, scrivendo un articolo in cui sostenevo che il partito di Berlusconi, il Popolo della Libertà, era già finito, era morto per suicidio perché si era impiccato da solo. Però non lo so, io in genere sono abbastanza positivo nei miei giudizi, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno invece di quello mezzo vuoto, ma adesso il bicchiere è davvero veramente quasi alla fine. Anche se Berlusconi ieri ha detto in questa riunione in cui sono uscite dalle cose poi smentite che in realtà non mollerà mai, però al di là di questo, oggi Giuliano Ferrara su Panorama cosa scrive? Che la favola di Don Silvio Rina, ma ve lo immaginate il Berlusconi piacione che dà ordine ai boss di continuare con le stragi? Ho un presentimento, questo giro di boa i forcaioli lo mancheranno. Certo che pensare a quello che può arrivare da Firenze e da Palermo è incredibile, no? Ma io penso anch'io che sia incredibile, anche perché mi sono sempre domandato che vantaggio avrebbe avuto Berlusconi nel, come dire, ordinare, usiamo questa espressione molto forte, a Cosa Nostra, la mafia, di mettere le bombe, di fare le stragi del 92 e del 93. Un collega molto, come dire, netto nei suoi giudizi mi ha risposto dicendo che aveva interesse a creare un clima di tensione in Italia perché aveva già deciso di fondare il suo partito Forza Italia e sperava che questa tensione ne favorisse la vittoria elettorale. Mi sembra un argomento, non lo so, io non ci credo, non ce lo vedo, come la storia del bacio a Totorina che era di Andreotti, se non sbaglio. Mi sembrano tutte favole e soprattutto sono sospettito da un fatto, che queste storie emergano tanti anni dopo. Non c'è dubbio. E ho la sensazione che ci siano dei magistrati che abbiano in testa quello che una volta venivano chiamati teoremi, che non è che sono morti, ci sono ancora, e sulla base di questi teoremi poi conducono la loro attività investigativa. E se uno ha un teorema in testa e poi prova a supportarlo con delle prove o anche degli indizi pesanti, secondo me è un metodo assolutamente sbagliato. Certo che è incredibile come siamo un po' appesi a Spatuzza e a quello che dirà a Torino il 4 dicembre. Questo già è quasi una semifollia, se vogliamo, no? Ma certamente una follia, perché questo è un paese che ha un milione di difficoltà, che ha dei problemi molto pesanti, difficili da risolvere, che è ancora immerso nella crisi economica che da noi è diventata soprattutto una crisi sociale, con un sacco di gente che ha perso il posto eppure di lavoro. Conta Spatuzza, conta Spatuzza. Questa mi sembra veramente irreale. Io confesso, fossi Berlusconi, avrei già tagliato l'accordo e me ne sarei andato a godermi gli ultimi anni di vita attiva in qualche posto più allegro che Palazzo Chigi. Bene, grazie. Invece Giampaolo Panza se la gode dalle parti di San Casciano, beato lui. Noi siamo qui a tirare la carretta. Grazie, ciao Giampaolo, buonasera. Siete giovani, mi sembra giusto. Meglio, grazie. Meglio. Grazie. 1953 800 24 00 24 Luca, provincia di Viterbo. Sì, buonasera. Dica. Volevo intervenire in merito all'ultima bestialità sulla guida che si è trovata. Però ha sentito Panza, da fumatore accanito, dice effettivamente ci si distrae. No, per carità, io non sono un fumatore accanito. Sinceramente la cosa che un po' mi dà fastidio è che dopo aver visto che i vari tentativi di rendere la sicurezza stradale un po' più sicura, i vari tentativi sono soltanto un elemento per fare fondo cassa. Ora, abbiamo visto che i vari etilometri, fotored, autovelox, chi più ne ha più ne metta. No, vabbè, il tutor sta funzionando, sulla patente a punti si può discutere, sull'etilometro è un problema di controlli a tappeto, di controlli a tappeto. È un problema di risorse lì, però di per sé questi macchinegni, queste trovate della modernità, questi controlli funzionano, è come se funzionano o no? Mi risulta che in effetti le statistiche sono abbastanza opinabili, perché girando su internet vedo che gli incidenti da una parte dicono sono diminuiti, dall'altro sono aumentati, quindi non credo alle statistiche, so solo che insomma, Luca, non ho capito perché secondo lei si può continuare tranquillamente a fumare in macchina? Andiamo al sodo. No, il problema non è questo. Il problema, io addirittura trovo che a questo punto dovremmo tutti quanti restituire la patente, perché ormai le macchine sono tali per cui ci portiamo 18 bambini, abbiamo mille motivi di distrazione. Il problema è questo, sa qual è, dottor Cruciani? Secondo me, è che si tende sempre a tirar fuori la solita leggina moralista, il codice della strada è un buon motivo perché è un sistema per fare cassa, però ci sono anche in altri settori dove si può fare cassa, però di fatto i problemi non si risolvono, perché quando noi andiamo in giro con automobili che vanno velocissime, con sistemi di controllo su cui, ho detto prima, non è assurdo che un autovelox o un etilometro finisca dal gabibbo su Mi Manda Rai 3, voglio dire, ma a questo sì, però, punto... Luca, andiamo al provvedimento, c'è o non c'è una capacità di distrazione, una possibilità di distrarsi, sì, quando c'è, si fuma? Sì, ma anche, guardi, però guardi, è anche vero, è anche, io sono molto scettico su questa norma, perché poi ci si può distrarre in milioni di modi in macchina. Ecco, l'ha detto lei, perfetto, allora non dovremmo più mettere il bambino nel seconda cosa, come si fa a controllare? Uno dovrebbe essere beccato in flagrante, cioè stai fumando, abbassa il finestrino, multa, 5 punti in meno, insomma mi sembra complicata anche l'applicazione. Bene. Certamente. Siamo qui alle 20 in punto, TG5. Napolitano, stop alle tensioni istituzionali, la magistratura si attenga al suo ruolo, nulla può battere un governo che ha la maggioranza alle Camere, le reazioni del mondo politico. Forse un prestito negato, il momento del delitto di Varese, i conoscenti del presunto assassino della pensionata dicono un tipo rissoso, sempre senza soldi. Delitto di Perugia, Sollecito parla in aula, provo amarezza e indignazione, ma sono certo che uscirò. La famiglia di Meredith chiede un risarcimento di 25 milioni di euro. Una sigaretta alla guida può essere più pericolosa del telefonino. Un senatore leghista propone 250 euro di multa e via 5 punti dalla patente. Fumatori divisi. Commercianti sul piede di guerra contro l'abusivismo, un settore che non conosce crisi e che sotto le feste ruba ingenti fette di mercato ai negozianti regolari. Parte oggi la stagione degli acquisti natalizi negli Stati Uniti, prezzi scontati e molti negozi aperti anche di notte. Bene, il fumo naturalmente è nei titoli di tutti i telegiornali. TG1. Napolitano, basta tensioni tra istituzioni, nulla può abbattere governo che ha maggioranza in Parlamento, magistrati si attengano a loro funzioni. L'ANM, non siamo in guerra, basta aggressioni, Alfano, magistrati autonomi ma soggetti alla legge, la Lega, tetto a cassa integrazione per i migrati ed è polemica. La crisi di Dubai non spaventa le borse, l'Europa chiude in positivo, Banca Italia nessun problema per il nostro paese. Omicidio di Meredith a Perugia. Il legale della famiglia chiede 25 milioni di risarcimento al TG1 ai genitori di Amanda. I video della Camorra spopolano su internet le canzoni neomelodiche dedicate ai boss. Il cantante Nino D'Angelo, rimuoveteli subito. 250 euro di multa per chi fuma al volante, una proposta che fa discutere, ma quali sono le altre distrazioni al volante pericolose e non sanzionate? Siamo qui 800 24 00 24, eravamo con Luca della provincia di Viterbo, se non sbaglio, no? Ha concluso, sì. Vuole concludere Luca? Sì, sì, sostanzialmente il messaggio è quello, che vi sono 100.000 distrazioni, questo mi sembra veramente ridicolo. E dunque, fosse per lei, niente, si può continuare tranquillamente a fumare la sigaretta? Ma secondo me sì. Bene, Pasquale da Taranto, buonasera. Sì, buonasera Luciani. Senta, prima lei ha iniziato la trasmissione con la Mannoia e non ha fatto, che non faccio commenti, mentre i commenti ieri li ha fatti, eppure abbastanza pesanti, così come li ha fatti quando ha commentato la Margherita Bui, ha commentato la Dandini, ha commentato, se non vado errato, anche la Mezzogiorno. Io dicendo sempre, ma queste cose non stanno né in cielo né in terra, io questo non riesco a capire come lei possa dire. Che limitiamoci alla Mannoia intanto, perché se magari hanno detto cose diverse le persone che le ha tirate in mano. Sinceramente non riesco a vedere niente di... Se uno può essere non d'accordo, però scuse che... Le cose che ha detto la Mannoia, che siano in cielo, non siano né in cielo né in terra, come ha detto lei, ma mi sembra veramente esagerato. Cioè, che cosa deve succedere? Che ci sia una deriva da questo punto di vista, quella evidenziata dalla Mannoia, da questo punto di vista, non, cioè, è talmente evidente, talmente palese. Sa, quello che è evidente a lei può essere anche non evidente a me, Pasquale. Sì, ma... Ma sono tante le cose che... No, ho capito, Pasquale, troppe persone, che significa troppe persone? Allora se ci sono 10 persone che dicono una cosa, quella cosa è sicuramente vera? No, assolutamente. Se ci sono 6 pentiti però, che dicono una cosa, che accusano una persona, no, quella persona è sicuramente mafiosa. Che ragionamento è? Non assolutamente capito. No, però guarda caso, parla la Mannoia e dice che comunque c'è una... Che l'immagine della donna, che l'immagine della donna oggi in Italia è di un certo tipo. Non ci credo nemmeno per un secondo, Pasquale. Non ci crede, quindi... Non ci credo, non sono d'accordo, non è così. Per esempio che ci sono che tante immagini, tante immagini della donna, ci sono la televisione si occupa anche di donne che certamente non sono donne dello spettacolo, nella società, poi a prescindere dalla televisione, le donne se la cavano egregiamente, occupano posti, certamente ci sono diversi problemi, ma non è l'immagine principale quella che evidenzia la Mannoia. Fatto quindi che normalmente che uno diventa consigliere regionale, provinciale. Ma dove? Mi dica i nomi, Pasquale, mi dica i nomi. Ma mi dica i nomi, ma da Dario di che cosa? Di che cosa è diventata? Che cosa è diventata? Aveva consigliere in sì. Un ma quale consigliere? Era candidata come tante altre persone in una lista. Sì, ha preso 7 voti. Allora, Pasquale? Chi l'ha candidata? Ma che cosa significa questo? Cosa significa? L'amica della Dario, chi l'ha candidata? Vabbè. Che era uguale. Ma questo significa che l'immagine della donna, questo significa che l'immagine della donna dipende dalla posizione della Dario in lista, non ho capito. Ma che curriculum aveva la Carfagna per essere ma giudichi la Carfagna per quello che fa, non ho capito. No, io lo giudichi per quello che fa la Carfagna, abbia pazienza Pasquale. Per quello che fa. Io voglio però prima di vedere quello che aveva fatto, bisognava capire come si giudica, come i nostri politici giudicano se gli assegnano i ministri. Secondo lei come è arrivato a fare il ministro? No, a parte che... No, me lo dica, secondo lei, si è fatto un'idea di come è arrivato a fare il ministro? Allora, volendo tralasciare quello che tutti quanti dicono, che però... Tutti quanti dicono, sapere, chi lo dice? Non si può saperlo, per esempio basta leggere il Clarin di tanto tempo fa. Certo. E allora, se leggiamo il Clarin sappiamo tutto sull'Italia. Guarda caso le cose che dice il Clarin, guarda caso... Ma è una fonte autorevolissima, Pasquale, il Clarin, il giornale argentino. Esattamente con quello che dice anche Paolo Guzzanti, che sarà un altro, che sarà un altro preso così dalla strada magari. No, ma io non ho detto, Paolo Guzzanti lo stimo, ma che può anche sbagliare Paolo Guzzanti. Comunque Pasquale, non ho capito, il punto è un altro, il punto è un altro, l'immagine della donna non dipende certamente dalla posizione di Mara Carfagna nel governo, abbia pazienza. Le intercettazioni di Berlusconi con Sacca. Ma cosa significa questo sull'immagine della donna che c'è in Italia? Cosa significa? Come l'immagine che c'è, perché le posizioni delle donne, a differenza di quello che dice lei, poi mi deve dire quali sono queste altre posizioni, si assegnano nelle posizioni importanti grazie a in questa maniera qua. E l'unica posizione importante è fare il ministro della pari opportunità, secondo lei, nella società italiana, no? Ah, non è importante fare il ministro della pari opportunità, è fondamentale, è un posto centrale, è un posto. Ma allora guarda, lo togliamo, facciamo. Ah, fosse per me, guarda Pasquale, lo toglierei domani il ministero delle pari opportunità. Insieme al ministro per l'attuazione del programma. Io. E mi dice quali altri grandi ministri abbiamo. Pasquale, il punto è che non capisco di cosa stiamo parlando, e questo è il punto. Cioè, stiamo parlando di una cosa talmente priva di sostanza, cioè che una cosa talmente gira, l'immagine che oggi c'è in Italia della donna, che non lo so, cioè non, sì, possiamo, mi dovrei rivedere qualche puntata dell'Infedele di Gad Lerner, forse capisco qualcosa in più. La ringrazio. Elena da Roma. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Vengo proprio a seguito di questa telefonata. Io sono abbastanza indignata della posizione della signora Mannoia, perché le donne non sono solo quelle di cui lei parla. Io sono una lavoratrice, sono una professionista, conosco tantissime donne che lavorano, che sono apprezzate, che non sono discriminate in alcun modo. E quindi questa emergenza sulla dignità delle donne la trovo altamente controproducente, offensiva. E d'altronde c'è molta libertà, se una donna ritiene di voler utilizzare anche la propria immagine per affermarsi, non trovo che sia, come dire, degradante. Le donne sono libere, possono utilizzare la loro preparazione, la loro professionalità o in alternativa la loro bellezza se lo ritengono. E io non credo ci sia un'emergenza donna in Italia, certo. No, ma concordo con lei. E mi creda, conosco, ho tantissime amiche che lavorano, medici, in tutti i settori, e nessuno avverte questo tipo di emergenza, che un intellettuale, che un presunto intellettuale, che una cantante molto, molto sinistra, diciamo così, ci vuole far credere. La ringrazio, Elena. Allora, 20:13, 800 24 00 24, Andrea da Pavia, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, intanto faccio una premessa, perché almeno eleviamo qualsiasi equivoco. Io sono leghista, di conseguenza un po' rozzo, razzista, ignorante e xenofobo. Questo chi lo dice? Abbiamo già detti tutti, che almeno glieli ha detto lei. Però penso che la proposta che c'è di fare una legge per limitare a 6 mesi la cassa integrazione non sia una proposta di quel genere. Per un semplice motivo. Cioè, a lei pare sensato? Mi scusi. Allora, i lavoratori stranieri sono in Italia per quale motivo? Per lavorare. Sì, come gli italiani. Vengono, no, a loro viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro, non come gli italiani, non continui a confondere le cose. Cioè, lavorano come gli italiani, in questo senso, lavorano come gli italiani. Però a loro viene richiesto un permesso, come noi lavoratori italiani, certo, se andiamo all'estero, certo, ci viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro. Dal assolutamente. Momento che all'estero noi perdiamo il lavoro, non ci danno la cassa integrazione. In America mio figlio è andato là, non gli hanno dato la cassa integrazione, gli ha detto scusi, non abbiamo più bisogno di lei. No, questo però è una... Prego su e aspetti, mi lasci finire. No? Prego, dica. Ora, se questi lavoratori hanno questo permesso di lavoro per venire in Italia, 6 mesi è il periodo in cui, dopo che loro hanno perso il posto di lavoro, hanno per trovarne un altro e o se no tornare al loro paese, visto che non abbiamo più bisogno. Sì, infatti Maurizio Fugatti precisa che cosa? Che l'emendamento sulla cassa integrazione è una mia iniziativa personale in linea con lo spirito dei provvedimenti sull'immigrazione che prevedono che dopo 6 mesi dalla perdita del posto di lavoro gli extracomunitari debbano lasciare il territorio nazionale. Andrea, lei la può mettere come vuole, il senso della proposta mi sembra molto chiaro. Secondo, almeno l'abbiamo sentito dalle parole di Fugatti, intervistato prima da Radio 24, da Paolo Panceri, mi sembra molto chiaro, cioè siccome abbiamo pochi soldi, bisogna che la cassa integrazione la diamo innanzitutto agli italiani, per gli stranieri va limitata. Questo è il punto, ma se uno straniero extracomunitario ha gli stessi diritti per quello che riguarda la cassa integrazione di un italiano, perché bisognerebbe privarlo della cassa integrazione? Mi dia una spiegazione a questo. Gliela do, se mi lascia finire. Prego. Ora, la maggior parte di questi stranieri vengono in Italia appunto perché hanno un contratto di lavoro. A questo punto noi abbiamo fabbriche dove io vado, perché io faccio l'autista e entro nelle fabbriche, dove ormai la cassa integrazione viene per turnazione, ossia lavori 2 giorni tu, 2 giorni lui, 2 giorni... Allora, se dobbiamo lavorare 2 giorni io, 2 giorni lui, 2 giorni un altro, come mai i nostri amici industriali, di cui questa radio è, lo sappiamo tutti, Confindustria, no? I nostri amici industriali hanno preso lavoratori in esubero per fare questo tipo di cosa. Uno lo so, per tenere basso il costo del lavoro, perché ormai è da 20 anni che il costo del lavoro di noi operai rimane sotto l'inflazione. E due, perché possono ricattarci meglio. Cioè, parliamo di queste cose. Mi scusi, questo è un altro discorso. Andrea, perché lei parla di un'altra questione? Il costo del lavoro, chi assume chi, le persone che... Non c'entra assolutamente nulla con la proposta di Fugatti. Lei, come al solito, invece di affrontare di petto una questione, si va a rifugiare in un'altra questione. Allora, Fugatti dice le risorse sono quelle che sono e prima di tutto dobbiamo guardare i cittadini italiani. Quindi diamo la cassa integrazione anche ai cittadini extracomunitari, ma solo per 6 mesi, se non c'è lavoro per gli italiani non ce n'è per nessuno, prima dobbiamo pensare agli italiani. Ma se uno ha gli stessi diritti avendo lavorato di un italiano, mi scusi, perché gli dovrebbe essere negata la cassa integrazione dopo i 6 mesi? Gliel'ho detto. No, ma non me l'ha detto, non me l'ha spiegato, perché non c'è una spiegazione a questo, non c'è. Sono lavoratori in esubero. Ma un lavoratore in esubero può essere anche italiano, non è necessario. Perché un lavoratore in esubero italiano è più privilegiato di un lavoratore in esubero extracomunitario? Mi scusi una cosa, ma se io a casa mia adesso, per fare, ho un'azienda a casa mia in cui ho preso 2 lavoratori per fare un certo tipo di lavoro, no? Sì. E dopo un po' non ne ho più bisogno di 2, ma ne ho bisogno di 1. Allora, per un po' vado avanti a pagargli sta cassa integrazione a tutte e 2, ma prima o poi dovrò fare una scelta. Cosa faccio? Mando via l'italiano? E tengo quello che è venuto qui a porta con un contratto per lavorare. Ma questo non c'entra niente però, Andrea. No, non c'entra. Un attimo solo, c'è il traffico. Resti con me. Andrea, che ci chiama da Pavia, e sostiene che l'emendamento di Fugatti, che propone uno stop alla cassa integrazione dopo i 6 mesi per gli extracomunitari, i soldi non ci sono, vanno riservati agli italiani, non c'è lavoro e quello che c'è deve essere riservato agli italiani. Queste sono le parole testuali di Fugatti. Ad Andrea vorrei chiedere questo. Secondo lei, chi ha pronunciato queste frasi? Sostenere che se non c'è lavoro per gli italiani non ce n'è per nessuno non è solo discriminatorio, ma contrasta con la realtà dei fatti, non solo perché, come noti, i posti di lavoro non sono in numero fisso, ma perché i dati del primo semestre del 2009 dimostrano che l'occupazione degli stranieri ha continuato a crescere mentre quella degli italiani scendeva, perché molti lavoratori stranieri coprono nell'industria, nei servizi, nell'agricoltura posti disertati dagli italiani. Non preservare con gli ammortizzatori sociali un fattore produttivo indispensabile per l'economia del paese danneggerebbe, non favorirebbe, i lavoratori italiani e le loro famiglie. Chi le ha pronunciate queste frasi, Andrea? Secondo lei uno schiavista. Eh? penso uno schiavista. Uno schiavista. Sì, perché le hanno pronunciate, livello, no? No, l'hanno, l'hanno pronunciate queste frasi degli alleati della Lega, cioè Benedetto della Vedova e Cazzola del PDL. Perché purtroppo noi in Italia non possiamo governare da soli. Perché se siamo governaste da soli, che cosa fareste? A livello regionale, e di conseguenza è impossibile che governiamo da soli. E invece che cosa succederebbe se, se governaste da soli? Forse ci sarebbe un po' più giustizia sociale, forse non utilizzeremmo lo schiavismo, perché ormai in Italia siamo ridotti a quello. A me, ma che c'entra lo schiavismo? Ma è un discorso inesistente. Ma scusi, ma secondo lei oggi lo schiavismo sarebbe ancora fatto come con le navi che vanno a prendere? E quale sarebbe le il nuovo schiavismo? Il nuovo schiavismo quale sarebbe? Il nuovo schiavismo affamiamo nel loro paesi. Quelli più deboli li affamiamo lì, che almeno loro devono venirci qui da solo, non li dobbiamo neanche pagare il viaggio, devono venirci qui da solo, e poi quando vengono qui non hanno regole, certezza di lavoro, casa, no, li mettiamo sotto i ponti e se vogliono prendono 2 lire nell'agricoltura, in quei lavori che mi disse lei, 2 lire nell'agricoltura, io vado anche nell'edilizia, li vedo. Sono schiavizzati questa gente. Andrea, veramente mi risulta che chi li schiavizza viola le regole, evidentemente, altrimenti ci sono delle regole in Italia molto in genere, poi naturalmente con tutte le eccezioni del caso. No, ma che c'entra il reato di schiavitù? Adesso non scherziamo. Ci sono delle regole molto ferree nel campo del diritto del lavoro, degli orari e quant'altro. Poi, naturalmente, ogni regione da questo punto di vista. Dovrebbe venire con me un po' tutti i giorni. Io mi farebbe molto piacere, ma non è riuscito ancora a spiegarmi perché Fugatti ha ragione, perché bisogna limitare la cassa integrazione. Gliel'ho spiegato. Oggi come oggi stiamo facendo arrivare e abbiamo fatto arrivare in Italia molta più gente a lavorare di quella. Ma non risulta dalle cifre, Andrea, non è così, non risulta dalle cifre, dai dati reali, non risulta. Dalle cifre, ma io glielo dico che è così. Ho capito, ma lo dice lei, non risulta dalle cifre. Anzi, ogni tanto le aziende chiedono più lavoratori specializzati in alcuni settori, si figuri un po', che vengono da fuori, ma non solo dalla Gabon. Con tutto il rispetto per il Gabon, allora? Io ho detto, vuole sapere quanta gente che sta cercando un posto di lavoro e che non lo troverà mai perché ormai... Perché è occupato da uno straniero? Stanno cercando degli schiavi, stanno cercando gente senza diritti. Andrea, queste sono generalizazioni generalizzazioni senza senso. Io vado Andrea, è così, fabbriche. Lei andrà per fabbriche, io andrò per altri luoghi. Dove vedo Marocchi? Dove vedo cinesi schiavizzati gente che schiavizza. Ma per lei essere schiavizzato cosa significa concretamente? Schiavizzato vuol dire che non vuol avere dire? Diritti del, ma scusi, lavoro. Se vuol qualcuno non dà diritti sul lavoro che passa dei guai lavoro. In Italia, Andrea, passa dei guai chi schiavizza le persone, chi non rispetta gli orari di lavoro, chi non paga, passa dei guai in Italia chi fa operazioni di questo tipo, Andrea. Poi naturalmente i controlli possono, in alcuni casi, in alcune regioni ci possono essere, non essere. Ha parlato bene dei controlli. Oggi dovremmo avere i controlli su chi inquina, i controlli su chi fa queste cose, i controlli sulle strade. Ho capito, ma lei... Che ma lei dà un'idea, sì, ma lei... e i reati invece da controllare sono ormai questo può darsi, ma lei dà un'idea del mondo della produzione, del mondo dell'imprenditoria in Italia che è totalmente sbagliata, perché non è così come ci dice lei. Esisteranno delle sacche di illegalità, non c'è dubbio, ma l'immagine non è quella che ci trasmette lei. Vuole che le dica l'ultima sacca di illegalità che ho visto nella mia azienda? Allora, noi non abbiamo neanche un lavoratore straniero in azienda. E allora qual è la sacca di illegalità che c'è? Qual è Ormai usiamo i terzisti, i quali a loro volta invece usano gli stranieri illegalmente, non li mettono in regola, la maggior parte non hanno neanche il permesso di soggiorno e li schiavizzano. I loro stipendi io li conosco, li ho detto, non superano i 4-5 euro all'ora. Ecco, e questa ormai è la sacca di illegalità. Male, è chiaro che il mio datore di lavoro non vede questo, perché lui dà il lavoro a un terzista. Vabbè, che questo è un altro discorso. Dovrebbe essere in regola, però i suoi operai non sono più in regola, sono invisibili. E sa quanta gente ormai invisibile esiste in Italia? guardi, dovrebbe veramente venire lei con me, dovrebbe fare un servizio come gli fa le Gabbanelli, che ogni tanto va a cercare faccio un altro mestiere, però volentieri. Lo so che lei fa un altro mestiere, però Andrea, volentieri, a volte lo fa anche abbastanza bene, non sempre io sono d'accordo con lei, però a volte lo fa anche abbastanza va bene. Andrea, la ringrazio molto di essere rimasto al telefono con noi per tutto questo tempo, buona serata. Grazie a lei, buona serata. Fabio da Napoli, buonasera. Luciani, volevo intervenire sul divieto di fumo in auto. Volevo dire che secondo il mio parere è la solita proposta per avere un po' di consenso e per distrarre un po' gli italiani dai veri problemi. Caso però non sono d'accordo, Fabio. Nasce questa proposta da un problema che c'è, che è quello della distrazione in macchina, secondo me... Ma credo che basterebbe semplicemente dire che quando un'auto è in movimento il guidatore deve guidare, tutto il resto è sanzionabile. Quindi basterebbe riassumere questo con tutti i comportamenti scorretti, invece di proporre ogni volta un comportamento diverso. Basterebbe dire che quando si guida e basta. Quindi questo, secondo me, ridurrebbe un poco, tutta questa discussione. E poi vorrei fare una proposta che credo un legislatore si dovrebbe fare. Siccome il primo motivo di morte è la velocità, basterebbe dire che le auto per legge devono rispettare i limiti di velocità, e quindi sulle auto per legge vanno montati dei limitatori di velocità, e magicamente le morti si ridurrebbero almeno della metà. Sì, però tecnologicamente lei sa che non è possibile questa cosa. Fabio, la ringrazio. La prima cosa che uno pensa è che più che una zanzara è una cornacchia del potere. E c'è. Lei ha letto qualcosina, se sa quello che Pasolini scriveva. Ho letto molto poco, nella mia vita ho letto molto poco. Capire quello che sta succedendo in questo paese. Grazie anche a voi. Perché la voce è quella del padrone che si sente solo. Boh. Per lo più si sente una voce sola, una grande voce sola. Mettere al posto della cultura Villa Certosa. Cos'è? Questa è l'Italia? Mettiamo al posto della cultura tutto questo bell'ambaradan di gente che traffica con la droga, che va in giro con le puttane, che fa quello che fa, e poi diciamo, ma in fondo questo è Rolling Stone. Gianni D'Elia, un poeta contro Berlusconi, tra i 30, 36, non so più quanti sono, reclutati dal quotidiano del Partito Democratico per prendersela con Berlusconi. Alcuni di questi poeti scrivono poesie sulla resistenza, altri esplicitamente contro Berlusconi, ma insomma il tema è quello. Donna Assunta Almirante alla 7:08:30 in Alleanza Nazionale era praticamente il presidente, e lui decideva quello che bisognava e dare ai suoi amici, a tutti quelli che avevano aderito, agli iscritti, era qualcuno. Adesso invece gli iscritti non ci sono più, e di conseguenza lui è un numero entro le forze della però libertà. Molti osservatori dicono che il presidente della Camera Fini ha il fiato lungo e anche lo sguardo lungo. Staremo a vedere, ma questa sera non parleremo con la signora Almirante solo della destra, parleremo anche e soprattutto di donne, di politica, di potere, di televisione, subito dopo la pubblicità. Va bene, Angelo da Benevento, Giulia da Roma, Michele da Piacenza, Lorenzo da Modena, Walter da Alessandria, Leonardo da Verona. Abbiamo il TG2 però con calma, Walter da Alessandria. Pronto? Eccoci qui, Walter, prego. Buonasera, signor Cruciani. Io la chiamo per invitarla ad ascoltare con più attenzione le persone che chiamano, perché sono le persone che vivono la realtà. A me sembra, io l'ascolto da 2 anni, è 2 anni che faccio un lavoro che mi fa stare in macchina, ho ricominciato ad apprezzare la radio. Meno male. Bel mezzo. No, assolutamente complimenti a voi, a Radio 24, Radio 3 e ad altre radio. Sono le 2 radio che ascolto, dicevo, la volevo invitare ad ascoltare più attentamente le persone che chiamano, perché rappresentano la realtà. Lei prima diceva schiavismo di qua, schiavismo di là. Aspetti, Cruciani, un attimo solo, mi faccia finire, il tempo è poco, io ho appena finito di lavorare. Noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, per cui... Benissimo, mi faccia finire. Le porto a caso il mio esempio. Io faccio un lavoro che mi fa uscire di casa alle 7 e tornare a casa, io devo ancora arrivare a casa. Sì. Sono 2 anni che lo faccio, non ho una ferie, non ho ferie perché lavoro tutti i giorni, da lunedì al sabato. Sì. Non ho dei contributi che alla fine della mia vita, forse se riuscirò ad avere 120 euro di pensione sarà fortunato. Se sto male devo pagare qualcuno che mi sostituisca, pagarlo io di mia tasca. Lavoro per un'azienda che è una società per azioni che evade spudoratamente su ognuno di noi, suoi dipendenti come me, 2/3 dello stipendio, ci prende per il collo o così o a casa. Io ho una famiglia e quindi sono che lavorare e non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno, perché io arrivo a casa, devo ancora arrivare a casa, alla domenica non ho il tempo di andare in giro a cercare un altro lavoro, fondamentalmente mi riesco a stare poco a casa e ci sto. Quindi lo schiavismo non è quello delle navi, come dice la signora, cioè non c'è più chiaramente, è un altro tipo di schiavismo. Mm. È fatto da queste società per azioni, multinazionali, che sfruttano la gente, punto, questa è la verità. Lei deve rendersi conto che quando chiamano persone come quello del signore di prima o altri, no, sono persone che vivono con la signore realtà. Di prima stiamo facendo un altro discorso che riguardava, no, che riguardava gli extracomunitari, abbia pazienza. Va bene, gli extracomunitari sono l'anello dopo di noi, che siamo italiani, una volta sì. Che io mi sarò liberato o forse riuscirò a trovare qualcosa di meglio, ci sarà un extracomunitario. Sì, Walter, il punto punto fondamentale è che il mondo del lavoro in Italia, come il mondo dell'imprenditoria in Italia, non può essere fotografato nel modo in cui sta facendo lei o nel modo in cui ha fatto l'ascoltatore di prima, perché non è così. Io adesso non conosco nel dettaglio la sua situazione, dunque non posso rispondere chiaramente alle cose che lei sta dicendo, come certo. lei può immaginare, no? Grande maggioranza è così. Sì, Walter, non è così. Francamente non è così. Se lei dice che la grande maggioranza della situazione dei lavoratori italiani è quella che ci sta descrivendo, le dico che non è così, perché le statistiche dicono chiaramente che non è così, per cui io non conosco la sua situazione, non voglio dire che le statistiche per sminuire quello che lei sta attraversando, i drammi che lei attraversa quotidianamente. Ma non lo dico di drammi, io sono fortunato con altre persone. Ecco, appunto, non lo dico per questo, guardi, dico semplicemente che se lei mi racconta quali sono le peripezie nella sua azienda, le difficoltà di portare avanti una famiglia senza un posto fisso, senza i contributi, io la capisco perfettamente. Dopodiché le dico che se lei ci suggerisce l'idea che questa è la fotografia del lavoro in Italia, le dico no, Walter, non è così, questo è il punto fondamentale. Non sarà tutto, ma sarà una buona parte. Ma no, non è nemmeno una buona parte, guardi, perché va bene, è così, Walter, poi per carità ognuno di noi ha il difetto, non è questione di rimanere sulla propria opinione, questi sono i numeri a dirlo, ognuno di noi, e mi ci metto anch'io, pensa naturalmente che la propria esperienza, la propria sensibilità, quello che uno vede quotidianamente sia in realtà poi no, la fotografia della realtà. Non è così, naturalmente. Posso chiudere ancora con una battuta? Prego. È un'altra cosa. È sul discorso delle sigarette. Io sì, anch'io fumo sigarette. In macchina, d'accordo, sì, in macchina sono d'accordo con questa legge, perché comunque hanno ragione, fondamentalmente è vero, però vorrei anche invitare, e così mi allaccio al discorso dell'immagine della donna, a togliere tutti i manifesti coi culi per aria, così almeno ci distraiamo di meno, va bene Walter, saluto, arrivederci. Grazie. Lorenzo da Modena, buonasera. Sera. Dica due cose veloci. La prima, che il limitatore di velocità nelle macchine si può mettere, tant'è vero che in Inghilterra già adesso è attivo montare sulla macchina e si autoregola in base al limite di velocità della strada, una cosa fantastica, completamente funzionante in Inghilterra. Dice? Non lo so, non sono aggiornato. No, glielo dico io, arrivo a casa adesso dall'Inghilterra, c'è uno lo monta e in automatico sulla strada dove arrivi ti regola la macchina in base alla velocità, al limite massimo di quella strada lì in quel momento. Fantastico. Cosa fantastica, ma fa lo stesso. Volevo soltanto un discorso su Fiorella Mannoia. Io sono perfettamente d'accordo con lei sul ruolo della donna e su quello che lei ha espresso anche prima. L'unica cosa, però, non sono d'accordo sull'utilizzo che lei ha fatto della canzone di Fiorella Mannoia, di mettere in onda il pezzo "Ma io come Giuda so vendermi nuda", un po' come farla vedere, diciamo, che si contraddice. Ah sì, c'era un po' di cattiveria, però non l'ho detto, ma non era... No, non era... nel senso che questa canzone è di 25 anni fa, Sanremo 82, no, ma quando cantava Fra Cionfoli, Cristian. Ma lo so benissimo. No, glielo dico io, e quindi quello lì, lei so vendermi nuda per uscire da questa casa galera, non per andare in televisione. No, ma certo. No, però lo dico perché lei lo sa, però... No, ma lo so, ma non volevo infatti... trovare una contraddizione tra la Mannoia, tra le frasi di quella canzone e quello che dice adesso la Mannoia. Non era sì, questo. Però è stato un po' malizioso mettere quel pezzo lì, poi dire non faccio commesse. Allora io volevo chiarirlo, perché francamente la Mannoia mi piace come cantante. No, ma anche a me piace moltissimo, piace moltissimo. Esatto, però, quindi era questo dato. Solo che dice delle enormità, secondo me, senza... No, su questo sono d'accordo, però cantata a Sanremo quando c'era Fracionfoli, Cristian, Felicità di Albano e Romina, lei cantava, ma io come Giuda so vendermi nuda per uscire da questa casa galera, era l'emancipazione femminile, non era vado in televisione nuda, perché non abbiamo foto nude di Fracionfoli, cioè queste cose non sono esistite, ecco, volevo chiarire questa cosa così amichevolmente. Assolutamente, la ringrazio Lorenzo. Saluti. Michele da Piacenza. Michele da Piacenza, buonasera. Buonasera, senta, io volevo parlare un po', tornare poi magari sul fatto dei dipendenti così, però volevo parlare, ho sentito che si parla ancora di mersificazione del corpo femminile, io non, sinceramente questa mersificazione non la trovo, si aprono i giornali, si vedono anche i corpi maschili messi in vendita, diciamo, sui giornali, e non capisco da dove sia partita ancora una volta questa storia qui, forse da gente che non è immersa nelle realtà, da donne politiche forse di una certa età che non comprendono la realtà in cui si trovano. Pronto? La sento Michele. Ah, ok. Sono un po' rattristito, io spero che tra una decina d'anni con le nuove generazioni questa cosa qui finisca, perché è come dire che gli uomini continuano a aprire i giornali per guardare le donne nude e non leggere gli articoli, oppure questa cosa dei cartelloni per strada, sinceramente, ma non sappiamo più di cosa parlare. Michele, anch'io rimango stupito di fronte a certi ragionamenti sul corpo della donna, sull'uso del corpo della donna e quant'altro. Ma ricordiamoci che una donna si fa fotografare perché le piace essere messa in mostra, non so, per dire. Non credo che una Laura Cucarini ai tempi d'oro non sia andata sul giornale contro la sua volontà per fare un nome, no? Quindi se una persona... Va bene Michele, ho capito. Stefano Sanchini è un altro dei poeti reclutati dall'Unità contro Berlusconi. In realtà Sanchini se la prende con la Lega. Un esaltato del mio tempo, questo è il titolo della poesia. Verdi e non nere alle camicie, i nuovi esaltati che ha ristretto la patria e combattono Roma senza saper d'essere stati romani, longobardi, ostrogoti, unni e slavi. E se in mille l'hanno unita, in mille oggi la vorrebbero divisa. Ma è il soldo che da sempre muove le loro battaglie, perché anche oggi delle tante lingue ne farebbero una e cacciano via gli stranieri, scordando che l'Italia da sempre fu alcova dei popoli. E per questo fu grande culla della scienza e dell'arte, terra di naufraghi, tutti uguali, perché in fondo ogni uomo nasce dal mare. Michele, da Piacenza l'abbiamo già ascoltato, Giulio da Roma. Pronto? Giulio, prego. Salve, senta, io vorrei parlare a riguardo del fumo al volante. Sono un videomontatore, ho cominciato la mia carriera facendo dei programmi televisivi sulla sicurezza stradale. Sì. E fondamentalmente fumare al volante è rischioso, perché noi, diciamo, abbiamo dimostrato attraverso dati alla mano, non così per modo di dire, che fumare, accendersi una sigaretta al volante equivale a distrarsi per 3-4 secondi, che a 130 km orari sono 400-500 metri alla cieca. Però io non ritengo che una legge che punisca, che sanzioni, sia forse la scelta migliore per risolvere i problemi in generale. Presumo che fumare al volante, come non portare le cinture dietro o non legare i ragazzini sui loro passeggini dentro le macchine, sia soltanto, diciamo, una questione di malcostume, quindi per cui le persone dovrebbero essere educate, non sanzionate e punite. Sì, diciamo che è lo stesso ragionamento che si faceva sul casco, volendo, no? Non ci dovrebbe essere la cultura della sicurezza, una sanzione inutile, non sto facendo il paragone tra le due cose. La distrazione c'è, ma ci sono tante distrazioni in macchina ed è difficile sanzionare certe cose. Facile, certo, facile con il casco la sanzione, normale, no? Uno non c'ha il casco, lo sanziono. Con la sigaretta certo, mi pare più complicato, ecco. Insomma. Beh, ovvio, però... Per esempio in autostrada, come si fa in autostrada? No, ma non è possibile. Con le fotografie, Dovrebbe stare a noi stessi quello di dire, cavolo, io ammazzo la gente oltre che me stesso se vado a sbattere a 130 all'ora. È vero, ci sono tante distrazioni, però tante di queste potrebbero essere evitate. Ma su questo non c'è dubbio, ci vuole una norma? Lei dice di no, anche secondo me. No, ci vorrebbe del buon senso, ci vorrebbe dell'educazione, cioè... Non in tutte le cose, forse in questa sì. La ringrazio, Angelo da Benevento. Buonasera. Pronto? La sento, Angelo, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io mi ero prenotato per parlare del divieto di fumo, questa norma, ma se mi consente 20 secondi per rispondere a Andrea, il leghista che ha parlato prima, no? Per la cassa integrazione. Dica. Ecco. Allora vorrei dire a Andrea, spero che mi senta, se noi lasciamo passare un principio del genere, cioè che è una disuguaglianza tra un italiano, come giustamente diceva lei, dottor Greciani, tra uno che è un extracomunitario e un italiano, un domani lasciamo un principio per dire un imprenditore, c'è un'azienda in crisi, quindi un suo governatore, un fiancheggiatore di questi imprenditori, questi onorevoli, ti mandano una legge, una norma in cui ti dicono guarda, dobbiamo dimezzare gli stipendi agli extracomunitari, perché come abbiamo fatto per la cassa integrazione iniziamo prima dagli extracomunitari, quindi a parità di produzione tra un italiano e un extracomunitario mi sento il diritto di dire vabbè, ma iniziamo prima con l'extracomunitario a dimezzare. Se si introduce questo tipo di principio, ecco, questa è la pericolosità di quella norma. E oltretutto fa una discriminanza. Sono lavoratori, noi non sappiamo se hanno italiano. C'ha 2.000 dopo lavoratori quell'azienda, c'ha 3.000 lavoratori quell'azienda. Non è un extracomunitario, produce come un italiano. Ha una catena di montaggio. No, Angelo, molto chiaro. La ringrazio. Andiamo a provincia di Milano, Remo. Sì, pronto? Sì, Remo, pronto? Dica. Sì, pronto, buonasera. Io sono un imprenditore, sono un leghista, vorrei dare una mia opinione riguardo quella normativa, riguardo diciamo, la cassa integrazione. Sì. Io partirei da un fatto, cioè se è un fatto, considero che il fatto è discriminatorio, però parto anche dal presupposto che le nostre aziende vivono oggi anche con tanti lavoratori interinali. Perciò a questo punto dovremmo fare questa stessa considerazione per i lavoratori interinali. Che significa? Perché non ho capito. Poi vorrei fare anche una... No, ma non l'ho capito questa cosa dei lavori interinali, Remo, non ho capito nulla. I lavori interinali, praticamente, quando un'azienda richiede per le sue commesse un lavoro, chiede un lavoratore interinale. In lavoratore interinale, terminata la commessa, questo lavoratore... Si spera sempre di poter lasciare uno spazio per altri lavori, però se non ma sono... che c'entra con la cassa integrazione limitata per gli stranieri? Perché lo stesso diritto potrebbe valersi anche per il lavoratore interinale, perché anche lui è un lavoratore. Per quanto riguarda diciamo la posizione diciamo degli extracomunitari, io trovo la situazione discriminatoria tra un lavoratore italiano e un lavoratore diciamo extracomunitario, la trovo discriminatoria, però trovo anche che diciamo in un caso dove io mi ritrovo con dei figli in un contesto diciamo aziendale mi sia concesso fare anche una scelta, scelgo quelli che sono e per me i figli possono essere anche i figli di quei genitori che hanno permesso a questa economia di crescere, perciò questi lavoratori che oggi sono qua con un permesso diciamo di soggiorno legato al lavoro non si sta parlando di possibilità di scelta dell'imprenditore, prendo questo, prendo quest'altro, preferisco quest'altro, licenzio questo oppure quell'altro, questo più delle volte a discrezione, no, quando è possibile farlo è qui cosa, si sta parlando di un'altra cosa, sì, cioè, esattamente il suo amico leghista deputato, perché lei ha detto che è leghista, Fugatti dice non ci sono i soldi, la cassa integrazione, sì, ma anche questo io vorrei portare a lei un dato, no? Lei sa, poi lo dico io, quanti sono i giovani tra i 25 e i 35 anni che mancano, che non hanno, che sono in attesa di lavoro? 1.900.000. Sì, ma Remo, ma no, qui lei sta sbagliando. No, questione di ricchezza, proprio questione di ricchezza. Sì, ho capito, io ma dico... qui si tratta di una limitazione di un diritto. Sì, ma ho capito, ma questa limitazione di diritto è legata anche a una situazione provvisoria che è un permesso di lavoro. Certo, il permesso di lavoro è già di per sé l'elemento per cui delle persone alle quali anche noi diamo del lavoro sono qua a lavorare. Ci sarà un momento in cui, se non abbiamo sufficiente ricchezza, non produciamo sufficiente ricchezza per quelle persone, diciamo, non avranno più il permesso di soggiorno perché non avranno più il lavoro, ma questo non ha niente a che fare però con la cassa integrazione. La ringrazio, devo chiudere. Leonardo da Verona, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica, velocemente, perché stiamo chiudendo, velocemente. Sì, la volevo ringraziare semplicemente per il contributo che dà, aiutando le persone a fare pensare con la propria testa e non con la testa. Lei ha già perso 10 secondi. Altri. Ecco, no, la proposta della Lega è stata una proposta facile, no? Per le bocche facili, cioè si dice non si fuma mentre si guida, poi dopo dirà anche agli extracomunitari la cassa integrazione, giusto per portare acqua al suo mulino, niente di che. Sono delle proposte da un partito appunto come la Lega, un partito che è leggero, è nato, ma per via del nostro forse per la nostra era, forse vuol dire che siamo proprio così noi a grandi linee, che... Leonardo, che significa? Siamo così, la nostra era, la Lega, bah. Va bene, chiudiamo, va, che è meglio per questa sera. Ci sentiamo lunedì alle 18:30. Ciao. La Zanzara.